piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Soloni dell'immigrazionismo ad ogni costo, incapaci di vedere che la loro logica malata sacrifica i popoli di tutto il mondo sull'altare di un turbocapitalismo alienante. Tutto questo amplificato ad arte da un megafono propagandistico di pseudoclericali irretiti dalla retorica mondialista. Ed infine tutti coloro che questi popoli mirano a sostituirli con non popoli, figli della modernità incontrollata. Il tutto nel nome del progresso. Per tutti voi, figli di una patria che non amate più, siamo qui a ricordarvi che proprio il popolo si ama e non si distrugge. Fermiamo l'invasione. Grazie. Ora potete riprendere a discutere di come rovinare la nostra patria. E la nostra città, grazie. Devo dire, io che ho molto frequentato la destra, l'estrema destra, da ragazzo, che vedere questa scena che sta girando in tutti i profili YouTube, mi è venuto da sorridere, ho provato un gran senso di pietà. Di pietà per i 15 nerboruti che hanno fatto questa sorta di virile incursione in un centro di beneficenza dove attorno a un tavolo c'erano un gruppo di signori, signore di una certa età, con i capelli grigi, con le loro vestagliette, seduti a un tavolino che discutevano. C'erano degli scaffali pieni di scarpe vecchie, vestiti usati, piccole masserizie, che questa brava gente distribuiva poi agli immigrati, agli stranieri, a chi aveva bisogno. Beh, questi con sprezzo del pericolo, veramente con un coraggio al di sopra di ogni possibilità umana, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, sono entrati in quella stanza, hanno circondato il tavolo con questi signori anziani che discutevano a chi dare le mutande usate o le scarpe vecchie, con atteggiamento marziale minaccioso, tutti con i giubbotti neri, i capelli rasati, in posizione riposo dei parà, conosco bene ragazzi, l'ho fatto prima di voi, tutti lì intorno, come dire, pronti, se vola una mosca peggio per voi. Uno ha letto questo proclama, che potono anche metterci un po' più di fantasia, sembrano le boiate che scrivono su Facebook i leoni da tastiera, e se ne sono andati. Poi adesso riprendete a rovinare la patria. E mentre se ne andavano, una di queste signore gli ha detto: per favore non fate rumore per le scale che disturbate i vicini. Allora, con un gesto impavido e glorioso, uno dei nerboruti guerrieri ha preso e gli ha abbassato il termostato. Dice: troppo caldo, gli ha abbassato il termostato. Passato quel termostato demo plutocratico, non so cosa, pancia fichista, troppo caldo, vi condanno al freddo, come se fosse l'olio di ricino. Ecco, l'olio di ricino in epoca digitale, abbassare il termostato del riscaldamento centralizzato del condominio dove stavano i signori anziani a distribuire scarpe vecchie ai poveri. Beh, questo gesto eroico oggi su tutti i giornali è stato proclamato, facendo un grande favore a questi qua, che oggi saranno tutti lì contenti, anche se li hanno denunciati. Visto, hanno parlato di noi, finalmente l'abbiamo fatta sentire. Ma non gli date importanza, non gli date peso. Rigurgito nazista, ma cosa sono questi? Ah, sono dei poveretti, lo vedete, sono dei poveretti. Vanno presi per il culo, non vanno glorificati nella loro sciatteria, capito? Invece, ma sono pericolosi, sono grandi e grossi. Sì, vabbè, sono grandi e grossi. Ne abbiamo visti tanti, grandi e grossi, e poi alla fine sono diventati agnellini. Ecco, comunque, memore di questo gesto che tutti hanno dato come inizio di una scintilla, di un risorgere del fascismo in Italia, abbiamo pensato di fare il nostro solito sondaggio. Vogliamo capire questa mattina quanti siamo rifascisti. Cos'è il rifascista? Beh, il rifascista sta al fascista come l'essere umano sta al rifatto. Immaginate una persona col botulino, con le guance tirate, con i palloncini sotto le guance, con un riaggiustamento plastico, quello è un rifatto o una rifatta. Il rifascista rispetto al fascista è questo. Il fascista era duro, cattivo, squadrista, crudele, via dicendo. Questo è il rifascista, è la versione edulcorata, cyber, mentre facevano questo stanno col telefonino, si riprendevano, però il video che abbiamo visto non è quello che hanno fatto loro, è quello che hanno fatto gli Umarell dell'associazione caritatevole, quindi nemmeno la gloria di aver passato ai posteri l'esempio epico del loro momento di virile attacco. Beh, quanto siete rifascisti? Fatecelo sapere. 800 24 0024. Nella sera di martedì 28 novembre, nell'italianissima Como, un manipolo di impavidi guerrieri, forgiati dal fuoco e dall'acciaio, con volitiva e determinata audacia hanno espugnato un avamposto di nemici della patria, dove tra pacchi di abiti usati, scarpe vecchie ed errate alimentari, hanno colto durante una riunione sediziosa elementi sovversivi della pericolosa organizzazione Rete Como Senza Frontiere, che dal 2016 assiste l'invasore straniero. Bene, italiani, avete anche voi voglia di rifascismo? Chiamateci in diretta all'800240024 e diteci in quali di queste quattro categorie di rifascisti vi riconoscete. 1. Rifascio repellente. Non mostrate alcun sintomo di rifascismo. Dio, patria e famiglia sono per voi roba vecchia. L'ordine supremo lo invocate solo quando mettete a posto il vostro armadio. 2. Rifascio sensibile. La camicia nera non vi affascina, ma detestate ogni forma di contaminazione. Ognuno deve stare al suo posto. No al manganello, ma sì ai paletti. E guai a chi li travalica. 3. Rifascio contro lo sfascio. Per voi la democrazia è bella, ma comincia ad essercene troppa. Un uomo forte al comando farebbe un po' di pulizia in questo paese che ha perso i suoi valori. 4. Rifascio totale. Basta con l'antistorico mito dell'uguaglianza. Invocate un colpo di stato militare. Siete pronti ad arruolarvi nelle ronde giustizialiste, mandare ai lavori forzati tutti i politici, i malfattori e gli speculatori e chiudere tutti i giornali. Per voi l'italiano vero è bianco, cattolico, santo, eroe e navigatore. Bim-bom, ibora, bim-bom! È giunto il nostro giorno! Bim-bom-bam! Sono finiti i tempi cupi! Bim-bom-bam! Siamo leoni e siamo lupi, risvegliati dal canone! Bim-bom! Questo l'abbiamo eletto l'inno nazionale dei rifascisti. Riepilogo le categorie perché è importante identificarle, perché il nostro staff di ben 15 analisti della comunicazione teleradiofonica possano trarre fuori poi i dati scientifici. Rifascio repellente è quello che è proprio forte di lui, proprio gli fa proprio schifo, ma nemmeno lontanamente avrà mai questa tentazione. Numero uno, repellente, se non siete rifascisti e mai lo saprete. Numero due, rifascio sensibile. Certo, no, è brutta cosa, figuriamoci, ho tanti amici omosessuali, tanti amici ebrei, tanti amici comunisti, però forse, chissà, questo è il rifascio sensibile. Tre, rifascio contro lo sfascio. Quando c'è vo', dico, non dico che dobbiamo tornare al regime, però magari, sai, una bella raddrizzata temporaneamente non ci starebbe male. 4. Rifascio totale. Ecco, rifascio totale sono proprio quelli che avete visto rappresentati, i rifascisti. Basta con l'antistorico mito dell'uguaglianza. La frase di Tognazzi in Vogliamo i colonnelli, però mi sembra giusta. Basta con l'antistorico mito dell'uguaglianza. Invocate un colpo di stato militare, pronti a arruolarvi fra le ronde giustizialiste, lavori forzati, tutti politici, ladri, malfattori, speculatori, i giornali tutti chiusi, i giornalisti tutti nelle miniere di sale a spalare carbone, che è impossibile, quindi moriranno nell'impossibilità del lavoro forzato. E l'italiano deve essere bianco, cattolico, santo, eroe e navigatore. Ernesto. Sì, buongiorno. Che rifascista allora, è lei? Cominciamo con la categoria. No, un attimo, voglio prima precisare una cosa. Se io ho 67 anni, sì. Se dovessi averne 20 o 25, cioè che fossi un ragazzo ancora giovane, praticamente l'idea qua è che i giovani sono preoccupati per il loro futuro, perché sentivo proprio stamattina in trasmissione, la vostra trasmissione, che praticamente la mia è questa, la mia è cominciata adesso. I migranti che arrivano 23 posti di lavoro in meno. Allora, così, non mi faccia comizio. Scusi, questo è uno studio fatto in Inghilterra. Sì, ho capito, Ernesto, va bene. Questa è la sua base teorica. Lei cos'è? Rifascista totale allora a questo punto? Quattro. No, io non sono rifascista totale, io sono per il buon senso. Allora, rifascista io... numero 3. Un pochino sì, un po' ci vuole un po' di giustizia e di ordine. No, non giustizia, ordine. Ci vuole un po' più di ordine perché le norme ci sono, bisogna seguirle tutti. Allora diciamo, perfetto, si chiama rifascio contro lo sfascio. Per voi la democrazia è bella, ma comincia a essercene troppa, è questo? Forse è anche così. Un uomo forte al comando farebbe pulizia in questo paese? No, quello no. Allora, bisogna decrescere di una categoria. Vediamo un po'. Rifascio sensibile. La camicia nera non vi affascina. Detestate ogni forma di contaminazione. Ognuno deve stare al suo posto. Questo sì, però. no al manganello. Le regole devono essere seguite. Si continua a dire, a schiacciare questo tasto delle regole, ma qua vediamo che tutti quelli che arrivano qua in Italia... È chiaro. No, siamo sintetici. Guardi, questo, il test è fatto con criteri scientifici. Non è che ci siamo inventati noi in 5 minuti, mezz'ora fa. Allora, può essere il motto questo. No al manganello, ma sì ai paletti. E guai che li travalica. No al manganello, esatto, che è brutto, ma sì ai paletti. I paletti sono anche per gli italiani, cioè per perché tutti. Non ci devono essere per gli altri. Giustamente. Allora, no al manganello, sì ai paletti. È la categoria 2. Sono quelli, diciamo... che non sono rifascisti, però dice bisogna un po' di regola, ci vuole. Quindi al numero 2, cominciamo subito. Ernesto ha parlato, Mariano, buongiorno. Mariano, leggo la sua telefonata, ciò che dobbiamo fare, per forza atti violenti, per essere presi in considerazione. Vediamo se Mariano riusciamo a recuperarlo, perché è interessante. Allora, recupero e ricordo le categorie. È molto delicato il passaggio, perché so che la parola rifascista può spaventare, ma non deve spaventare. Non ha nulla a che fare col fascismo, se non la parte finale, è rifascista. È un fascista rifatto, è diverso, è un'altra cosa. Probabilmente magari è meno grave, che ne so, però bisogna chiaramente identificarsi in una delle categorie. Gianni. Pronto? Lei che rifascista è? No, io sono rifascista repellente. Repellente, perfetto. Allora, così cominciamo anche. Volevo fare una considerazione. Sì. Io penso che i fascisti, visto che hanno il mito dell'impero romano, certo, eccetera, dovrebbero essere a favore dell'immigrazione, perché la grandezza dell'impero romano si evolse con il concetto di cittadinanza. Ecco. Gianni, ma lei chiede uno sforzo culturale che geneticamente è impossibile. Lo so, però diciamo per assurdo. Diciamo. Si guardi il video di Com, poi capisci, come fa a spiegare a quei ragazzi. Ma quelli di ieri mi hanno dato fastidio, non è che mi sono stracciato le vesti, mi hanno dato però enormemente fastidio. No, a me mi hanno fatto un po' di pena, grandi, grossi. Esatto. Con i muscoli per due vecchietti e due signore con la vestaglina lì, ma mi sembrava un po' esagerato. Bussavano, diciamo, possiamo leggervi una letterina? Gliela leggevano, gli offrivano la camomilla e se ne andavano. Cioè, non vedo l'atto eroico in tutto questo, capito? Esatto. Non lo so, D'Annunzio volava su Vienna, gli arditi c'hanno il pugnale tra i denti, cioè, questi che hanno fatto? Esatto. E la signora gli ha anche detto, mi raccomando, non fate rumore per le scale. Mancava che gli desse le pattine di lana sotto i piedi e uscivano strusciando. Non è una figura proprio di quelle... Sono dei rifascisti, infatti, dei rifascisti. Okay. Va bene, Mariano, l'abbiamo ripreso. Mariano. Sì, buongiorno. A che numero la colloco di rifascismo? Ma guardi, a parte il rifascismo, che servirebbe secondo me solamente per allineare la classe politica attuale, che è una classe labile in tutti gli aspetti, in tutti i colori e in tutte le direzioni politiche. Allora numero 3. Numero 3, va bene. Glielo leggo. Rifascio contro lo sfascio. Per voi la democrazia è bella, ma comincia a essere troppa. È d'accordo? Potrebbe essere una soluzione, sì. Un uomo forte al comando farebbe un po' di pulizia in questo paese che ha perso i suoi valori. Sicuramente sì. Vabbè, mica c'è niente di male. Guardi, è un test fatto, studiato proprio sulle possibilità. Lei è al numero 3, non è contro la legge. Il numero 3, diciamo, vorrebbe soltanto un momento di maggior decisione, forse. Senta, lei ha visto il video diciamo, dell'azione rifascista a Como? Come lo giudica? Solo per capire... Scusi, non ho capito. Ha visto quel video dei ragazzi a Como che sono entrati nel centro anziani? Infatti. Come li giudica loro, secondo lei? È stato un gesto utile dal punto di vista, diciamo, dell'affermazione di questo pensiero, oppure... Non hanno fatto poi una bellissima figura. No, sicuramente non è stato un gesto utile, però ecco, come disquisisco da quello che dice lei, cioè nel senso è da prendere in considerazione, perché anche questi piccoli gesti vanno analizzati, capisci? Qua siamo perché per farlo. Non dobbiamo per forza analizzare magari il pazzo che entra con la pistola e fa la strage. Però anche questo va analizzato, sicuramente... Sì, però da un punto di vista della comunicazione, se loro vogliono fare una comunicazione efficace, invece che entrare tutti lì, sembrava che dovessero espugnare il fortino degli indiani, e loro erano quelli buoni, cioè cowboys, dovevano entrare, bussavano entrando, guardate, non siamo d'accordo con quello che fate, secondo noi voi fate qualcosa che va contro gli interessi della vostra stessa patria. Li avrebbero accolti lo stesso, cioè non c'era bisogno di circondarli tutti con le mani dietro la schiena come se erano pronti a scattare, cioè sembrava il servizio d'ordine di una discoteca, cioè era un centro con delle persone anziane che stanno lì facendo i pacchetti con le magliette bucate per dargli agli immigrati. Uno glielo può dire anche in altra maniera, secondo me poi ognuno fa quel che vuole, ma noi guardiamo e osserviamo e analizziamo. Laura. Buongiorno Nicoletti. Rifascista di che tipo? Terzo. Terzo tipo, glielo ricordo, rifascio contro lo sfascio. Sì. Allora, per lei la democrazia è bella, ma comincia a essercene troppa. Ecco. Allora, la democrazia non è mai troppa, ma quando è vera democrazia? Noi adesso siamo solo nel caos, nella confusione, eh? Questa non è democrazia. Anche perché la stampa non funziona più. Ma cioè, i giornali, se dice questo però deve entrare nel quarto gruppo, che vanno chiusi tutti i giornali. No, io vorrei che i giornali fossero più presenti, che non fossero giornali di regime. Quindi non sono per la quarta categoria. Voglio giornali non di regime. Io sono un giornalista di regime. No, Laura, per capire diciamo. Ci passano solo le notizie che vuole il governo. Scusi un attimo, tante Laura. Le cose non ce le dicono. Laura, facciamo un test concreto, reale. Mi pongo come cavia. La mia maniera di pormi come giornalista è considerabile di regime? Così capisco cosa è più e cosa no, è meno. Assolutamente no. Quindi diciamo una cosa media, più o meno si potrebbe considerare il grado zero di regime Nicoletti, un po' meno è un giornalista molto coraggioso, un po' più diventa un giornalista di regime, ecco. Diciamo è il punto di partenza, la base, l'unità di misura. No, allora, Nicoletti è uno che dice quello che pensa e mi sembra una persona molto... A lei, molto, può anche dire quello che vuole. Nicoletti, io la seguo dai tempi di Oliviero Bea, si ricorda la trasmissione con Oliviero Bea, diverso da chi, sì, eravamo prima, sempre. Sì, ero contigo, c'era lui e me insieme, sì, insomma, ecco, parla di 25 allora, anni. Allora, questi sono giornalisti veri, non sono giornalai. Va bene, quando grazie. Ci spostiamo su Rai 1, Rai 2, Rai 3... Entriamo allora nel punto 4. Ecco, questa è Radio 24, ma è diversa. Qui si sentono delle notizie che sugli altri... Vabbè, ma noi qua siamo, sì, no, qua siamo. Grazie, non mi serviva solo il dato per capire se non un punto di riferimento... È difficile poi per le persone che stanno di là, le immagini che davanti, io ho 15 persone che stanno lavorando a testa bassa e elaborano i dati a tempo reale, quindi è importantissimo. Grazie del suo contributo, ci fermiamo un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Melog. Nella sera di martedì 28 novembre, nell'italianissima Como, un manipolo di impavidi guerrieri, forgiati dal fuoco e dall'acciaio, con volitiva e determinata audacia hanno espugnato un avamposto di nemici della patria, dove tra pacchi di abiti usati, scarpe vecchie ed errate alimentari, hanno colto durante una riunione sediziosa elementi sovversivi della pericolosa organizzazione Rete Como Senza Frontiere, che dal 2016 assiste l'invasore straniero. Bene, italiani, avete anche voi voglia di rifascismo? Chiamateci in diretta all'800240024 e diteci in quali di queste quattro categorie di rifascisti vi riconoscete. 1. Rifascio repellente. Non mostrate alcun sintomo di rifascismo. Dio, patria e famiglia sono per voi roba vecchia. L'ordine supremo lo invocate solo quando mettete a posto il vostro armadio. 2. Rifascio sensibile. La camicia nera non vi affascina, ma detestate ogni forma di contaminazione. Ognuno deve stare al suo posto. No al manganello, ma sì ai paletti. E guai a chi li travalica. 3. Rifascio contro lo sfascio. Per voi la democrazia è bella, ma comincia ad essercene troppa. Un uomo forte al comando farebbe un po' di pulizia in questo paese che ha perso i suoi valori. 4. Rifascio totale. Basta con l'antistorico mito dell'uguaglianza. Invocate un colpo di stato militare. Siete pronti ad arruolarvi nelle ronde giustizialiste, mandare ai lavori forzati tutti i politici, i malfattori e gli speculatori e chiudere tutti i giornali. Per voi l'italiano vero è bianco, cattolico, santo, eroe e navigatore. 800240024, quanto siamo rifascisti. Federico. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno. Ha capito le categorie, in quale si colloca lei? Sì, perfettamente. Io, guardi, le dico subito, mi identifico pienamente nella terza, perché mi sembra che sia intanto la più morigerata, perché le prime due sono un po' così, un po' ambigue. No, ambigue, sono graduali, graduali. Perfino un po' ignave rispetto a, nei confronti di panciafichiste, diciamo panciafichiste sono le prime due. Ecco, la quarta è da Curva Nord, di stadio calcistico, insomma, quindi folcloristica. Diciamo, molto... diciamo l'italiano medio potrebbe stare nel rifascio contro lo sfascio. Ma più che medio, l'italiano che ha un minimo di capacità di ragionamento, che non si fa condizionare... L'uomo qualunque, tanto per dirla in termini storici. Qualunque, è un po' diminutivo, un po' limitativo. Beh no, dall'uomo qualunque diciamo, è nato poi la persona che il movimento ideologico. Ha un senso, un certo senso dello Stato, dell'etica, della morale, non moralistico, ma della morale... Gliela rileggo, così sì. Mi creda, in questo momento è la categoria più frequentata, noi abbiamo colto il segmento che più si ritiene, diciamo, vicino ai sensi del nostro sondaggio, è proprio la categoria 3, è rifascio contro lo sfascio. Per voi la democrazia è bella, quindi siete democratici, ma comincia ad essere troppa. L'uomo forte al comando farebbe un po' di pulizia in questo paese, che ha aperto i suoi valori. Ora, l'uomo forte al comando non è detto debba essere un dittatore, può essere anche, non so, un presidente del consiglio con un parlamento regolarmente costituito. Esatto. Quindi diciamo che non ha molto senso il fatto di traslocare una realtà di 70-80 anni fa a oggi, quindi utilizzando gli stessi paradigmi di una volta, come ad esempio quel messaggio retorico registrato a Como, eccetera. Secondo me la differenza fra tutto quello che è stato detto come neofascista, postfascista, è il rifascista. Il rifascista sa esattamente quali sono, diciamo, le parti da assorbire di un'esperienza passata condannabile, deprecabile senz'altro, e si ripropone oggi in chiave diversa. Mi sembra chiaro, Floriana? Sì, non ho capito perché bisogna chiamarlo rifascista. Cioè, già la parola fascismo ti viene da ridere, perché vedi quelli con le mani sui fianchi, le camicie, quelle specie di pompone. Ma quello è il post-fascismo. Cioè, macchiette. Io sono per la categoria numero 3. Rifascista. Mi identifico in quello. Un po' di sistema, un po' di ordine moderato, sempre moderato. Nella democrazia, certo. Ma che vengano rispettate le regole, certo. Da tutti, a cominciare dai politici. Certo, per primi loro, sono i primi. Grazie, Floriana, molto chiaro. Andrea. Sì, buongiorno, sì. Nicoletti. Io sarei tentato di dirle il numero 4, però come la storia insegna, gli estremi forse non vanno mai bene e alla lunga portano più danni che benefici. Lei, diciamo, sta quindi oscillando tra il 3 e il 4? Io, diciamo, io le dico 3, aggiungo anche che soprattutto qui in Italia io sentirei l'esigenza di chiedere un po' di educazione, mi passi il termine, militare a questa gioventù. No, fermo un attimo. Se lei comincia a dirmi questo, sta entrando decisamente nel territorio. Non deve aver paura, guardi, anche la numero 4 è nei limiti della legge, non è che chiede nulla di non legale. Proviamo a rileggerla insieme. Basta con l'antistorico mito dell'uguaglianza. Questa è una bella frase, comunque. L'antistorico mito dell'uguaglianza. Storicamente l'uguaglianza è stato un mito. Sì, io sì, no, è una frase, questa è la frase di Ugo Tognazzi in Vogliamo i colonnelli, però ha delle radici plausibili. Invocare un colpo di Stato militare, questo lei no o sì? No, è troppo. Lei allora è sulla 3. Lei è una 3. All'ordine. È una taglia 3, è una taglia 3, dai, è chiarissimo, Manuele. Franco. Oh. Franco. Eccomi qua. Rifascista a che livello? Numero 3, dopo aver ascoltato tutti i miei predecessori, perché una dittatura è impossibile, perché viviamo in una comunità più allargata, non è nei confini nostri e non possiamo decidere noi per questo. Cioè non si torna diciamo a ricompiere cammini che sono stati nefasti, quello è chiaro. Ma no. Ma infatti il rifascista però, non è un fascista. Però un riordino delle regole democratiche è una cosa assolutamente obbligatoria per continuare a vivere. Cioè una piccola strizzatina al sistema, questo sì, è il termine tecnico. Poi le devo dire, questa mattina mi sono divertito alle 6 a vedere il telegiornale quei 5-6 gigioni lì. 15 erano. Non so quanti erano. Sì, ma non era meglio farsi una passeggiata, una partita di rugby? No, potevano andare al bowling a Como ieri sera, c'era una birreria lì vicino, bevevano qualche birra. Si divertivano di più. Si faceva qualche cannone e poi andavano a dormire, perché... cioè, veramente è l'esempio della non capacità di voler fare delle cose. Sì, poi anche, diciamo, hanno in qualche maniera ammesso che la loro sia stata una causa degna di attenzione, hanno gettato il ridicolo. Hanno gettato il ridicolo, ma oggi purtroppo, siamo in queste condizioni perché anche la politica getta il ridicolo. Vabbè, abbiamo detto, come abbiamo, lei sul punto 3, mi sembra la cosa più chiara. Quasi, all'inizio ero sul 2, ma ho capito che il 4 non ci arrivo, mi fermo al 3. Beh, il 4 è una soglia, finora è stata soltanto lambita, vuol dire nessuno si è collocato decisamente sul 4. Franco ha parlato, adesso sta arrivando qualcun altro, dico, ma vi do una rapida sintesi. Repellente è stato, diciamo che a poche persone sono state totalmente repellenti sul rifascismo di fascia 1. La fascia 2 pure, diciamo, sono stabilizzati sul 3. C'è un desiderio di rifascismo, un desiderio che non vuole sfociare in un regime dittatoriale, in una violenza, in campi di sterminio. Assolutamente no, questo non c'entra. Però un pochino sì, un pochino sì. Emanuele. Buongiorno. Siccome sento che tutti hanno paura di dire che sono dei fascisti totali, lo dico io. Ma fascista o rifascista? Aspetti, è molto diverso. No, io direi fascista. Vabbè, però non c'entra col, ma non c'entra col sondaggio. Perché non lo sono mai stato. Poi Emanuele, sì? Scusi. Fascista sono fatti suoi, non sto a giudicare, non sto qui per giudicare, la mia è una posizione neutrale. Ma qua parliamo di rifascismo. Se lei è fascista non rientra in nessuna di queste categorie. Il rifascista... mettiamolo come rifascismo, tanto è vero. Rifascista totale. Che ritengo che in realtà, no, ovviamente non sto parlando del fascismo incarnato da Benito Mussolini. Ma quello era il fascismo. In poi. Sto parlando di qualche cosa che purtroppo prima o poi sarà necessario. Infatti, perché è inutile che stiamo a girarci tanto intorno. Qui ci stiamo avviando prima o poi allo sfascio totale e alla guerra civile. Gli posso rileggere, la voce rifascio totale, così vediamo, così mi dà qualche elemento, visto che è stato il primo che ha avuto il coraggio di collocarsi nella quarta fascia, che è quella un po' più hard, quindi a che ora devo chiudere? A subito, devo chiudere, sono già fuori, allora devo chiudere, niente, mi dispiace. Rifascio totale è stato soltanto uno, non mi è stato dato l'annuncio della sigla, sono i 46. Quanto manca? Al traffico, ci fermiamo un attimo, resti in linea, Manuela, riprendo dopo. Melog. Chiamateci in diretta all'800 24 00 24 e diteci in quali di queste quattro categorie di rifascisti vi riconoscete. 1. Rifascio repellente. Non mostrate alcun sintomo di rifascismo. Dio, patria e famiglia sono per voi roba vecchia. L'ordine supremo lo invocate solo quando mettete a posto il vostro armadio. 2. Rifascio sensibile. La camicia nera non vi affascina, ma detestate ogni forma di contaminazione. Ognuno deve stare al suo posto. No al manganello, ma sì ai paletti. E guai a chi li travalica. 3. Rifascio contro lo sfascio. Per voi la democrazia è bella, ma comincia ad essercene troppa. Un uomo forte al comando farebbe un po' di pulizia in questo paese che ha perso i suoi valori. 4. Rifascio totale. Basta con l'antistorico mito dell'uguaglianza. Invocate un colpo di stato militare. Siete pronti ad arruolarvi nelle ronde giustizialiste, mandare ai lavori forzati tutti i politici, i malfattori e gli speculatori e chiudere tutti i giornali. Per voi l'italiano vero è bianco, cattolico, santo, eroe e navigatore. 800240024, 0024, sto parlando con Emanuele. È ancora in linea, Emanuele? Sì, scusi, mi ero confuso un po' con l'orario, pensavo che era già finito, ma c'è ancora un po' di tempo. Allora, Emanuele, lei si colloca nella fascia 4, gliela rileggo. Dopo aver ascoltato quello che è stato citato ancora al punto 4, sono perfettamente d'accordo. Vediamo punto per punto. Punto per punto lei me lo dettaglia. Basta con l'antistorico mito dell'uguaglianza. Beh, questo va da sé, chiaro. Va da sé. È evidente che gli uomini non sono tutti uguali. È una bufala che ci stanno raccontando dal 1700. Ma l'ha detto anche Tognazzi. Comunque. Un ingegnere non può essere come un idraulico o un muratore. Esattamente. Così come un africano non può essere come un cinese. Certo. Uno nasce in Cina, l'altro nasce in Africa, chiaro. Poi li vede, sono diverse a vederli, chiaro. Però invocate un colpo di stato militare, questo è d'accordo? Diciamo Non completamente. Non si fida dei militari, non si fida. Ci sono degli esempi in Europa in cui non c'è bisogno di un colpo di Stato militare, basta un bel governo eletto democraticamente da un popolo sano, come il popolo russo, piuttosto che quello ungherese. Ah, quindi lei ha Putin come elemento, diciamo, di riferimento. Diciamo che è un bel punto di riferimento. Vabbè. Siete pronti a ruolarvi nelle ronde giustizialiste? Sicuramente, sì. Io già mi sono candidato a fare le barricate se porteranno nel mio quartiere dei migranti degli africani. Okay. Clandestini. Di qualunque nazione molti sono. Molti che sono d'accordo con me. Vabbè. E viaggio normalmente con una mazza da baseball in mano. Vabbè, lei c'è proprio nel 4. Lei non c'è. Mandare ai lavori forzati tutti i politici, i malfattori, gli speculatori. Senza dubbio. Va bene, questa fermi vado per punto. È troppo comodo cavarsela soltanto mandandoli certo a casa. Lavori forzati. Restituire al popolo quello che hanno rubato. Lavorando, come si fa sempre. Chiudere tutti i giornali, d'accordo su questa linea? Ma anche questo non è necessario, perché se nel momento in cui gli italiani apriranno gli occhi, probabilmente anche si accoderanno si adegueranno. I lecchini del giorno d'oggi saranno pronti a cambiare bandiera. Tipo me, lei dice Emanuele, per dire. Come dice? Tipo me, diciamo, lecchino tipo me. Non lo so, cioè domando. Categoria si vuole mettere. No, lei fa la valutazione. Così come dopo il 25 aprile tutti i fascisti improvvisamente diventarono democratici e di sinistra. Vabbè, la stessa cosa avverrebbe nel prossimo futuro. Si adegueranno, su questo le posso la ragione. Poi, per voi l'italiano vero è bianco, cattolico, santo, eroe, navigatore? Su questo non c'è dubbio. Perfetto, una chiarissima, finalmente un punto 4, diciamo, al 100%. Gianluca. Eccolo. Buongiorno. Che punto? Andiamo veloci che voglio farne tre più possibile. Tre e mezzo, io mi rifascio continuamente, ogni giorno. Lei diciamo si ricolloca fra il rifascista contro lo sfascio e sfascio totale. Ovviamente bisogna rivederlo, capirlo, la questione razziale è fuori del mondo, della logica. Ma quello fa parte del fascismo, questo è rifascismo. No, si rifascia. Ma il rifascista non è razzista? Il fascista non deve essere il rifascista. Il rifascista non deve essere... Perché è una cosa vecchia, antiquata, fa parte del passato. È una questione di valori. Perfetto. Non lo dico io, lo diceva Pasolini, il nostro modello sociale è un modello sociale voluto. Va bene, è molto chiaro. Dobbiamo accoglierli e omologarli, fra virgolette, a quella che è un patrimonio culturale del quale non dobbiamo vergognarci, certo, che dobbiamo tutelare e difendere. Rispetto, diciamo, delle tradizioni. Circa la democrazia, che è un tabù perché se ne parla, bisogna sempre per assunto dire la cosa migliore. La democrazia è il miglior modo per ridistribuire la ricchezza quando la si produce. Siccome non la produciamo più da 15 anni... Non serve più la democrazia. No. Vabbè, è molto chiaro. Ma cioè io rispetto, io sto osservando, io faccio il giudice, faccio il prete, faccio il moralizzatore, io cerco di estirparvi il più possibile informazioni per farmi un'idea generale del sentire generale degli italiani. Roberto. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Roberto, pronto? Lei si è espresso. Pronto, mi sente? Sì, a che punto lei si colloca di questa lista? Io, ecco, come adesso Gianluca, al 3,5. Tre e mezzo. Quindi diciamo il rifascismo... Una rivolta del popolo la vedrei molto giusta. Quindi un po' di rivoluzione ci dovrebbe essere. Sì, scendere in campo. Ma allora sulle 4, sì, però è 4, scusi, abbia coraggio. I politici e appenderli tutti, no. Vabbè, ai lavori forzati, appenderli tutti. A ucciderli proprio. Vabbè, lei va oltre, il numero 5, lei vuole addirittura rifare la pezza. Io sì, vado al 5. Vabbè, lei è per il genocidio di popolo. Da fare, vabbè, basta, Roberto, il 5 non è contemplato, mi fermo al 4. Dal 4 in poi si entra nel reato penale, quindi non voglio nemmeno darle spago. Fine, lei è oltre il 4. Walter. Pronto? Walter. Sì, buongiorno. Rifascista allora, a che livello? Io mi colgo da 3,5, nel senso, un bel movimento popolare che indica nuove regole, un uomo forte di democrazia che non c'è dai ricatti dei vari partiti. E però questo è più sul 4, è più sul 4 che sul 3, le dico. Ma io parlo di democrazia, non parlo di questo. No. Quindi la democrazia non è troppa. Va bene. Però ci vorrebbe una democrazia con un uomo forte al comando. Bravo, esatto. Beh, la sintesi, il rifascista, alla fine il rifascista è questo. Del fascismo prende poche cose, ma precise e inequivocabili. L'uomo forte al comando, la necessità di regole, la necessità di rispetto, cioè uno stato valoriale basato sui valori, ma valori anche religiosi o soltanto valori di tipo etico laico? Faccia capire. No, valori legati alla nostra cultura, alla nostra storia. Cioè io non obbligo nessuno a essere cattolico, ma odio chi non mi permette di esserlo. Ah, beh, vabbè, molto chiaro. Chiarissimo. Sergio, rifascista, sì. A che livello? 4. 4. Me la dettaglia un po' meglio. Il livello 4, fino a che punto arriva, diciamo? Fino a dove si spinge? Ma guardi, dal livello 4 a me non è piaciuto tanto il nome rifascista, vabbè, ma questo ma quello, è un dettaglio. Bisogna farlo capire in qualche maniera. No? Andrei anche piano sull'uomo forte. Io credo che i tempi siano trascorsi e non ci sia più spazio per un qualcosa. Vabbè. Che si potrebbe vabbè, chiamare allora diciamo già abbiamo visto delle possibili scissioni. Anche il punto 4 più estremo permette comunque al suo interno una biforcazione. Ci sono i numero 4 moderati, i numero 4 estremi. Comunque abbiamo dato un quadro lampante e chiaro del rifascismo in Italia. Spero di aver reso un servizio alla patria. Alla prossima.